GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Udine il flash mob dei dirigenti medici, mobilitazione nazionale per contratto e criticità del sistema. Un incontro con il governo sull'acciaieria a San Giorgio, Legambiente contro il progetto Metinvest. Danieli. Oltre 200 milioni di interventi totali e Friuli chiude un bilancio 2022 focalizzato su PMI e start-up. Durerà 120 giorni il cantiere di restauro della Sala Gialla del Museo Revoltella di Trieste. Una pubblica amministrazione che promuove infanzia e adolescenza, tema di un focus oggi a Palmanova. A Trieste compie 50 anni la cooperativa Lavoratori Uniti Basaglia, festa alla stazione marittima con un documentario. Risonanza, ma al Borghetto Valbruna torna il festival che si svolge ai margini e dentro al Bosco di Abeti della Valsaisera. 18:31 minuti, di nuovo buongiorno da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli. Partiamo ancora dai temi della sanità, flash mob dei medici. Questa mattina davanti all'ingresso principale dell'ospedale di Udine, ad organizzarlo l'intersindacale della dirigenza medica e sanitaria. Una mobilitazione nazionale contro le proposte avanzate alle trattative per il rinnovo del contratto, definite irricevibili dalla categoria. È stata l'occasione anche per rilanciare i problemi locali della sanità, a cominciare dalla carenza di personale, anche in regione grave e acuita dalle continue dimissioni numerose anche tra i medici. Al flash mob, secondo i sindacati, oltre una cinquantina tra medici e dirigenti medici dell'ospedale di Udine, simbolo in regione della mobilitazione nazionale promossa dall'intersindacale della dirigenza medica e sanitaria per il rinnovo del contratto, ma anche per richiamare l'attenzione di opinione pubblica e politica sui problemi sempre evidenti, a cominciare dalla fuga del personale in atto in tutto il comparto, anche tra i medici. Federico Barbariol, anestesista. Siamo tra i reparti più colpiti dalla carenza, ma soprattutto dalla fuga del personale, che ovviamente si dirige verso situazioni più facili da gestire, in cui si viene valorizzati per quanto si lavora. Anche lei ci ha pensato di andare? Ma ci stiamo pensando tutti, purtroppo. Noi anestesisti abbiamo veramente una moria, molti miei amici. Nell'ultimo anno 4 miei amici sono andati. Tra i camici bianchi alta la preoccupazione, ma anche la delusione per come sta evolvendo la situazione. Fernanda Campora, anestesista. Il pronto soccorso in questo momento è veramente in difficoltà, numericamente siamo in condizioni molto critiche. Il personale dell'anestesia siamo 58 rispetto agli 80 previsti, quindi lavoriamo sicuramente in un surplus orario per mantenere l'organico del lavoro quotidiano, e tutto questo crea notevole disagio al personale. Chiedono la salvaguardia del sistema sanitario nazionale e regionale, che da anni denunciano viene depauperato in favore del privato. Jacopo Tesei, chirurgo plastico. Il sistema privato non deve diventare una necessità, deve diventare una scelta. Per la CGIL serve incrementare le risorse. Andrea Traunero, CGIL FP. Abbiamo preso dagli organi di stampa che c'è un avvicinamento all'assestamento di bilancio in regione, con molti finanziamenti, molti soldi messi per la sanità pubblica. Crediamo e speriamo e riteniamo che in qualche modo, perché non sia una sanità di pochi, si possa essere condivisa quanto prima possibile. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentato questa mattina a Trieste il bilancio 2022 di Friuli alla finanziaria regionale. Sentiamo. 37 milioni di euro erogati con 13 operazioni a vantaggio del tessuto imprenditoriale regionale. Friuli chiude il bilancio 2022 focalizzando l'attenzione sulle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. A loro e alle start-up innovative la finanziaria regionale ha dato la possibilità di nascere e crescere nonostante un anno caratterizzato dalla crisi energetica e dal conflitto in Ucraina. Federica Seganti, presidente di Friulia. Il trend degli ultimi tre anni, un trend estremamente positivo, in nettissima crescita, quindi mediamente in raddoppio rispetto agli anni precedenti, consolida un portafoglio estremamente sano. Quindi tutte le aziende in cui noi partecipiamo sono aziende sane, sono aziende che stanno crescendo. Abbiamo una novantina di società, quindi abbiamo un incremento di aziende. Il valore complessivo degli interventi è arrivato a 201 milioni di euro per un totale di 90 aziende partecipate, di cui l'80% sono PMI. Il fatturato aggregato di queste si aggira attorno ai 3 miliardi di euro con un totale di oltre 10.000 dipendenti coinvolti. Nel settore della finanza innovativa spicca l'investimento di Friulia nei mini bond impiegati in varie operazioni per un valore di 5 milioni e 800 mila euro. Tra gli strumenti invece messi in campo la creazione di FVG Plus, società in-house creata per gestire ed attuare le politiche regionali nei confronti di imprese e di privati. Barbara Zilli, assessore regionale alle finanze. La nostra società finalizzata a dare un sostegno particolare alle piccole e medie imprese, quindi a quel tessuto che è comunque oggetto di intervento da parte di Friulia, ma che ha necessità anche di agevolazioni più snelle e più veloci. Il patrimonio netto di Friulia si attesta a 653 milioni di euro. Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 74 milioni, mentre l'utile dell'esercizio ammonta a 4 milioni di euro. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. I tribunali di Gorizia e Trieste sono i più performanti in Italia in termini di durata complessiva delle procedure con riferimento ai tempi di vendita giudiziale durante l'anno, posizionandosi rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica, con una media lo scorso anno di 2,6 e 2,8 anni, mentre la media nazionale si ferma a oltre 6 anni. A pari merito con Trieste anche il tribunale di Ferrara, che si aggiudica il terzo posto con una media pure di 2,8 anni, seguita da Savona e Mantova. E quanto emerge dalla settima edizione dello studio dei tempi delle esecuzioni italiane, report annuale presentato dall'associazione T6, tavolo di studio sulle esecuzioni. Continua a dividere l'ipotesi di realizzare un nuovo impianto siderurgico a San Giorgio di Nogaro contro il progetto Metinvest Danieli, oggi anche Legambiente nel centro della Bassa Friulana con il presidente nazionale Stefano Ciafani. La direzione nazionale di Legambiente chiederà un confronto con il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per parlare anche dell'ipotesi di investimento siderurgico Metinvest Danieli a San Giorgio di Nogaro. Cosa ci sia di concreto su questa proposta, cosa ne sa il governo e dove voglia andare l'Italia sull'acciaio. Lo ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale dell'associazione ambientalista, nel corso di una conferenza stampa al porto turistico Marina Sant'Andrea a San Giorgio di Nogaro, proprio il luogo più vicino alla punta sud, davanti all'area industriale che sarebbe interessata dall'intervento. Quando si parla di insediamento produttivo di taglia così importante, le regole di ingaggio istituzionali devono essere chiare, ha detto Ciafani. La mancanza di chiarezza è incomprensibile. Chiediamo di schiarire l'oscurità così che si possano fare valutazioni anche sul piano tecnico-scientifico più accurate, gli ha fatto eco Roberto Urbani del gruppo di lavoro sull'energia di Legambiente. Auspichiamo che gli studi affidati alle università di Udine e Trieste su idraulica e sedimenti possano servire a livello propedeutico per una pianificazione volta invece alla sostenibilità, ha detto Michele Tonzer della segreteria regionale di Legambiente. A maggio il presidente Federica aveva affermato in consiglio regionale che la giunta dirà no a qualsiasi insediamento che possa anche solo ipoteticamente danneggiare la laguna, l'ambiente e il turismo. Domenica scorsa l'assessore al turismo e alle attività produttive Bini, partecipando a un evento ai cantieri Marina San Giorgio, aveva detto che solo i paracarri non cambiano idea. Saremmo tafazziani se permettessimo di deturpare il territorio, rilanciando l'avvio di un tavolo di lavoro dedicato alla nautica da diporto, istituito nella scorsa legislatura e di cui ci sono stati finora incontri preparatori. L'obiettivo del tavolo è individuare misure per la crescita del settore che è tra i più preoccupati dall'ipotesi acciaieria. San Giorgio di Nogaro, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: perde il controllo della moto e finisce contro un piccolo albero di gelso, perdendo la vita sul colpo. È successo ieri sera, intorno alle 19.30, in via Petri, a Pozzuolo. La vittima è Vincenzo Variale, 28 anni da compiere. Questo è il nome corretto e non quello che c'era stato erroneamente riferito questa mattina. Nato a Caserta, era manutentore del 313° gruppo, la PAN, la pattuglia acrobatica. Era arrivato a Campo Formido a settembre dello scorso anno ed era residente nella base aeronautica Pasian di Prato. Il motociclista ha improvvisamente perso il controllo della moto, un veicolo di media cilindrata, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, in un tratto in leggera curva. Un impatto frontale che non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118, arrivati subito dopo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Vincenzo Variale. La moto è andata completamente distrutta. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Latisana, esattamente nello stesso punto. Una sedicenne in sella alla sua moto uscì di strada ad aprile, rimanendo seriamente ferita. Nel nostro paese bambini e adolescenti sono diminuiti in 15 anni di 600.000 unità e il 13,5% dei giovani è a rischio povertà. Temi che vengono affrontati questo pomeriggio nel corso di un convegno a Palmanova rivolto ad amministratori e dirigenti della pubblica amministrazione, con un focus sugli strumenti che le istituzioni pubbliche locali possono mettere in campo per la promozione dell'infanzia e dell'adolescenza e il sostegno alla natalità. Il pediatra Giorgio Tamburlini, presidente del Centro per la Salute del Bambino, partecipa ai lavori di questa giornata. Il punto da cui partire, direi, è quanto la scienza ci ha insegnato sull'importanza dei primi anni ai fini anche dello sviluppo successivo della salute mentale e in generale dei percorsi di vita degli anni successivi. L'ambiente familiare conta moltissimo e quindi quello che i genitori sono e fanno con i loro bimbi dalla nascita in poi e anche prima è fondamentale. I comuni innanzitutto possono favorire, attraverso dei tavoli che mettono assieme sia i servizi diretti dai comuni stessi, quindi in particolare i servizi educativi, i servizi sociali, alcuni dei servizi culturali, assieme ai servizi che magari le aziende mettono in campo in questo caso, quindi i consultori familiari, i punti nascita, la pediatria di famiglia, affinché ci siano delle politiche e dei programmi coordinati che facilitino i percorsi delle famiglie, che informino in particolare i genitori su quelli che sono i bisogni evolutivi, quindi anche le competenze dei bambini e su quello che i genitori possono fare anche a casa per fare in modo che lo sviluppo del bambino sia promosso e che anche la relazione fra genitori e bambini sia impostata sulle basi migliori fin dall'inizio. E per quanto riguarda la natalità, tutti sanno che la disponibilità di servizi, ma direi oggi anche il fatto che le famiglie si sentano parte di una comunità e si sentano accompagnate in questo loro percorso, credo che sarebbe, accanto alle indispensabili politiche sul reddito, gli assegni, i congedi, non dimentichiamo i congedi anche paterni che richiedono in Italia di essere un po' rivisti e allargati. Tutto questo sicuramente può facilitare la natalità, tant'è vero che nei paesi dove questo avviene la natalità è più alta e soprattutto per quanto riguarda il secondo e il terzo figlio. Incontro con il prefetto di Gorizia per le riorganizzazioni sindacali della scuola del territorio, sul tavolo in particolare la questione dei tagli alle scuole slovene. Un taglio, sia pur minimo, c'è stato, scrivono in una nota i sindacati, diversamente da quanto avvenuto nelle scuole italiane. Il personale è diminuito negli ultimi 10 anni del 25%, quello docente del 35%, quello ATA con punte del 40% per gli assistenti amministrativi. Una situazione che non garantisce la sicurezza, la salubrità degli ambienti e un buon servizio scolastico, né la sicurezza e la salute del personale. E infatti dai dati INPS risultano in crescita le malattie professionali. Responsabilità attribuibili alle modalità obsolete con cui il Ministero assegna il personale alle regioni, si legge nella nota unitaria dei sindacati, secondo cui l'impiego di risorse importante messo a disposizione dalla regione non può essere la soluzione al problema, ma è necessario lavorare in sinergia con gli uffici periferici, l'ufficio scolastico regionale, i dirigenti scolastici e le istituzioni per chiedere, in vista dell'organico di fatto, il personale necessario per far funzionare in sicurezza la scuola, garantendo la qualità e la professionalità che merita. La cooperativa Lavoratori Uniti Basaglia, CLU, festeggia oggi 50 anni con un evento alla stazione marittima di Trieste, dove verrà proiettata anche l'anteprima del documentario firmato da Erika Rossi e Massimo Cirri. Il nostro programma Buongiorno Regione questa mattina aveva ospite il presidente della CLU. Sentiamo. La cooperativa dei lavoratori uniti Basaglia è molto di più di una storia di successo dell'inclusività, rappresenta uno dei fattori chiave della rivoluzione di Franco Basaglia e dei suoi collaboratori che vollero ridare dignità alle persone con sofferenze psichiche. La prima costituzione della cooperativa fu infatti rigettata dal tribunale perché dei 28 soci iniziali 16 erano ricoverati e come tali erano privi di diritti civili e politici e quindi non potevano far parte di una cooperativa. A mezzo secolo da allora la CLU conta oltre 300 soci impiegati nei settori delle pulizie specializzate, cura del verde e logistica e ha un fatturato di oltre 8 milioni. L'inclusività supera il 30% previsto dalla legge. Ivan Brajnik è il presidente. Ci attestiamo al 37%, però è la nostra missione. E quindi stiamo ben attenti sempre a soddisfare non solo il requisito di legge, ma quella spinta emozionale che comunque c'è sempre stata, quella spinta proprio etica di obbligarci noi stessi a centrare l'obiettivo non solo del 30%, ma di portare la cooperativa quanto più possibile in quella direzione, cioè di includere, e questo tessendo anche reti di collaborazione a livello regionale, non più solo sul territorio triestino. Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il meteo, cielo sereno su pianura e costa, nuvoloso sui monti, alle 11 a Trieste 23,5 gradi, a Udine e Gorizia 24,5, a Pordenone 24. A Tolmezzo 21,5 gradi, a Forni di Sopra 18,5, a Tarvisio 18 gradi, a Sappada 17, sul Piancavallo 14, sul Monte Zoncolan 11 gradi, sul Monte Lussari 8, sulla costa Lignano 25 gradi, a Grado 24,5, temperatura del mare 23,5. Queste le previsioni meteo a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per il pomeriggio. Cielo variabile in montagna con probabili rovesci e temporali sparsi che successivamente potranno interessare anche altre zone. Temporali localmente anche forti sulla costa e sulle zone orientali. Soffierà bora moderata. Durerà 120 giorni il cantiere di restauro della Sala Gialla del Museo Revoltella di Trieste, deciso per la conservazione della struttura dopo lo spandimento che ha danneggiato soffitto, intonaci e pavimentazione. Il servizio ammonta a circa 250.000 euro l'investimento stanziato dal Comune di Trieste per il restauro della Sala Gialla del Museo Revoltella, presentato questa mattina in un'iniziativa che rientra nel piano di manutenzione costante della struttura, che ha già visto i lavori alla terrazza. L'operazione si deve allo spandimento avvenuto anni fa a livello della copertura, che ha danneggiato sia l'intonaco sia la pavimentazione che degli elementi lignei, tutti inclusi nei lavori conservativi che sono stati decisi di concerto con la soprintendenza, in modo da mantenere il valore storico-artistico della struttura. Nelle intenzioni dell'amministrazione, il restauro agirà anche sull'adeguamento alle norme di sicurezza del museo e dovrebbe essere completato entro 120 giorni, fermo restando che eventuali piogge potrebbero rallentare l'intervento di impermeabilizzazione del soffitto. Già allestito il cantiere, affidato a inizio mese con appalto a un'azienda specializzata di Venezia. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli tornano al Cinema Zero da oggi al 21 giugno in versione restaurata. Quattro titoli tra i più amati e significativi del grande regista spagnolo Pedro Almodóvar. Per tutti gli spettacoli il biglietto è a 3,50 euro grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura per la valorizzazione del cinema europeo. I titoli sono L'indiscreto fascino del peccato, Che ho fatto io per meritare questo, La legge del desiderio e Tacchia spillo. E biglietti in vendita da oggi online nei punti vendita autorizzati per il concerto all'alba di Remo Anzovino, per i concerti nel parco di Villa Manina. Anzovino suonerà integralmente il nuovo album Don't Forget to Fly sabato 12 agosto alle 5:30 del mattino. torna alla rassegna di musica e cultura ebraica Erev Laila, promossa dall'Associazione Musica Libera in collaborazione col Museo Carlo e Vera Wagner, la comunità ebraica di Trieste e il Festival Victor Ullman. La GOM, giovane orchestra metropolitana, eseguirà musiche di compositori ebrei legati alla Shoah alle ore 21. Alla Sala Bergamas di Gradisca, nell'ambito della rassegna Innesti, connessioni teatrali ha fatto prevedibili replica di Fanny e Anita con Sara Alzetta e Daniela Gattorno, musiche originali di Max Jorcev alle 20:30. Primo appuntamento di Art Without Borders a Farra di Sonzo nell'azienda Colmello di Grotta alle 20 con il concerto Music Net del duo Nuance formato da Laura Pandolfo all'arpa e Anna Govetto al flauto traverso. E alle 18 al Museo d'Arte Moderna di Muggia, omaggio a Lelio Luttazzi tra narrazione e musica da parte dell'Associazione Musicale Folcloristica Triestina Vecchia Trieste. Partono gli eventi collaterali alla mostra Italia 50, moda e design, nascita di uno stile alle 18 nella sala conferenze dei musei provinciali di Borgo Castello a Gorizia. Si terrà design italiano degli anni 50, il nuovo rinascimento delle arti applicate, incontro tenuto dalla co-curatrice della mostra Carla Cerutti. Alle 17 all'Accademia Città di Udine, libero dialogo sulla fratellanza, spunti e ammaestramenti sulla enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco su fraternità e amicizia sociale. Continuano le visite guidate alla scoperta del lato nascosto di Pordenone, organizzate dal Comune con le bravissime guide ufficiali del territorio. Oggi alla scoperta dell'area ex Tomadini, curiosando tra rocce, mura e antiche fabbriche, alle ore 18:15. E sempre a Pordenone dalle 15 alle 18 nella sala Locatelli, nell'ex cartiera del Parco San Valentino, corso teorico pratico per walking leader, ovvero conduttori di gruppi di cammino, nell'ambito del progetto regionale FVG Movimento 10.000 passi di salute. E oggi inizia anche il Festival Risonanze nei luoghi del cuore di Malborghetto Valbruna fino al 18 giugno, ai margini e dentro al bosco dove la natura è palcoscenico e i preziosi abeti della Val Saisera diventano melodia. Un festival che quest'anno assume una dimensione più intima, tu per tu con la musica, in uno scambio personale con gli interpreti e a diretto contatto con il lavoro dei liutai che con fatica e sapienza regalano suoni alla foresta. Sentiamo il direttore artistico della manifestazione Alberto Busettini. Il Festival Risonanze porta la musica nel bosco, la natura diventa il nostro palcoscenico e luogo di incontro tra musicisti, liutai e il nostro pubblico. Quindi attraverso tutta una serie di attività nel bosco e nel centro di Malborghetto si potrà partecipare a questo incontro proprio tra musica e natura, una sorta di rigenerazione per il fisico e per le orecchie in un certo senso. Quindi si inizia la mattina con lo yoga e i bagni di gong per proseguire poi lungo il sentiero degli abeti di risonanza con delle passeggiate musicali a cura dell'Accademia d'Archi a Rigoni e per poi ritrovarci ad esempio in fattoria didattica per gli spettacoli dedicati ai bambini, quindi i musicanti di Brema raccontati da Anatema Teatro e poi l'attività a contatto con gli animali. La sera invece è la nostra sala del concerto del Palazzo Veneziano a portare la grande musica, quindi dal barocco al classicismo di Mozart con la FVG Orchestra e il violino solista di Ian Lanciò, ad esempio la musica contemporanea del Novecento con il duo curato da Mary Kojayan e Robert Portica. L'appuntamento finale invece è in Val Saisera, domenica pomeriggio, con accordi e disaccordi che ci portano con le sonorità delle chitarre e del contrabbasso in una sorta di crossover tra melodie del Mediterraneo, melodie gypsy, musica jazz, una sorta di crossover veramente che apre il repertorio alle trascrizioni e alle elaborazioni. I libri alle 18:30 nella sala proiezioni della Società Alpina delle Giulie di Trieste, la guida Alpi Giulie orientali, sentieri e vie ferrati nelle Alpi del Triglav di Gianpietro Zamò, vincitore del premio speciale del concorso letterario Leggi Montagna. Il volume raccoglie 47 itinerari per 27 mete diverse nelle Alpi Giulie orientali. E poi presentazione del libro di Raffaella Regoli, sospesa un'opera nata nel periodo delle restrizioni pandemiche. Oltre all'autrice parlerà il medico Giuseppe Corbatto, referente regionale dell'associazione Ippocrate.org, alle 18 in sala Xenia, Riva 3 novembre, 7 a Trieste. Infine lo sport, l'APU Old Wild West Udine ha ingaggiato Andrea Gracis quale nuovo direttore sportivo della prima squadra, subentra dopo 3 stagioni ad Alberto Martelossi. Gracis, trevisano, arriva a Udine dopo 9 nel ruolo di direttore, 9 anni nel ruolo di direttore sportivo proprio nella squadra della sua città. Ex giocatore nella sua carriera Treviso, Venezia e Pesaro. Con la Scavolini ha conquistato 2 scudetti e 2 Coppe Italia, prima di tornare a Treviso, terzo scudetto e un'altra Coppa Italia, una Supercoppa e la Coppa Europea nel 95 e chiudere la carriera a Mestre. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Regia Mauro Cumine, Alex Ollan. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli. Grazie dell'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.